La rosa purpurea di Franco d'Assisi. L'avevamo lasciato così tanti, forse troppi anni fa. Un saluto da Franco d'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, ma soprattutto queste sono le note di una sigla che ci ha fatto tanto compagnia quando eravamo veramente molto giovani, giovanissimi, ovvero quella di Capitan Harlock, il grande prima manga, poi anime, 1978, prodotto dalla Toei Animation, una serie di 42 episodi che inondarono i nostri televisori con questo bellissimo capitano pirata con la sua nave, con il muso a forma di teschio, davvero straordinaria, per raccontarci ancora una volta come andavano le cose dalle parti delle stelle. Adesso Capitan Harlock è diventato un film mostrato in una prima proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia, che adesso arriva dal 1 gennaio, è in tutte le sale cinematografiche italiane, anche qui animazione però rimodificata, con quel motion capture che ti permette di animare di fatto quasi le forme umane. E allora sentiamo questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Mi hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Io sono Capitan Harlock ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro. Boris, ben ritrovato a questa prima Rosa Purpurea del 2014. Buon anno innanzitutto. Buon anno a tutti e soprattutto a te. E speriamo che sia un buon anno di cinema. Insomma, le premesse sono queste. Dal 1 gennaio un numero notevole di film in sala. Noi li abbiamo un po' splittati, metà la scorsa puntata e metà in questa. Vuoi che ha giocato il calendario, perché comunque il 1 gennaio è caduto a metà della settimana. Vuoi che forse c'è anche una ritrovata fiducia nell'uscire non a Natale ma a Capodanno, cioè non doversi fare per forza tutte e due le feste comandate, ma come dire, far sfogare un po' i film che erano già fuori a Natale e trovare un pubblico a quel punto pronto per questa seconda ondata. Certo, Capitan Harlock ha uno zoccolo duro di tutti quelli che hanno, diciamo così, fra i 35 e i 50 anni oggi, per un pubblico che potrebbe davvero riversarsi in sala. Assolutamente sì, è un pubblico affezionatissimo che tra l'altro insiste sulla mia generazione. Siamo cresciuti con Capitan Harlock, insiste sulla voglia di nostalgia e di vintage. Insiste però anche su un film che a livello visivo è clamoroso. Io non condivido l'entusiasmo di James Cameron, che ha usato parole straordinarie per Capitan Harlock, perché a mio parere a livello narrativo non si arriva a quella malinconia, a quella rabbia, a quella visione piratesca della vita e dell'eroismo che aveva il manga e che aveva anche la serie animata, che ha fatto conoscere in Italia cosa voleva dire non avere un lieto fine. Però di sicuro nella prima parte c'è il Capitan Harlock che ricordiamo, c'è il Capitan Harlock bello e cattivo, ma sotto sotto anche romantico. A livello visivo è identico, quindi è un tuffo nel passato. C'è qualcosa da rivedere secondo me sui comprimari, che erano una parte fondamentale della storia precedente, che qui vengono trascurati e in qualche modo anche addolciti, e c'è qualche difficoltà in una storia che è troppo convenzionale, troppo politicamente corretta per essere una storia di Capitan Harlock. Detto questo, è impossibile non andarlo a vedere per chi lo ha amato, perché comunque ritroverete il capitano, quel capitano tutto nero che in qualche modo ha insegnato anche dei valori diversi ai bambini che lo hanno visto quando erano piccoli qui in Italia. Senti Boris, si è scelta un po' la chiave ambientalista, se vogliamo, come capita spesso con questi film anche di fantascienza in live action negli ultimi tempi, no? Un universo tra quasi un millennio, popolato da 500 miliardi di esseri umani, discendenti da quelli che vennero esiliati appunto dal pianeta Terra, che ora è controllato da una coalizione che, al dispetto di un nome poetico, Gaia, in realtà governa con fare dittatoriale tutto il genere umano. Cioè c'è questo senso anche di un ritorno impossibile verso la Terra che è presente in molta fantascienza recente. Beh, c'è un movimento politico recente che di Gaia e del nome Gaia ha fatto un uso particolarmente spregiudicato, quindi forse non è così strano che sia stato usato quel nome. Detto questo, sì, è proprio questo forse quello che manca, nel senso che se questo richiama la morale piratesca di Capitan Harlock, lui da solo contro tutti, lui da solo contro l'autoritarismo, è anche vero che questa morale ambientalista poco si confà a quell'Harlock che andava in cerca solo della sua giustizia e cercava di farci giustizia da solo, anche a volte utilizzando metodi, anzi la maggior parte delle volte utilizzando metodi non ortodossi. Di sicuro si paga, diciamo, un dazio alla modernità che il manga e la serie animata non avevano. E allora, questo è Capitan Harlock nei cinema italiani da questa settimana. Noi a questo punto apriamo una prima parentesi dedicata al nostro DVD game, come sempre, anche quest'anno la possibilità di vincere splendidi film, soprattutto in Blu-ray, alta definizione, come succede questa settimana con questo capolavoro che arriva per la prima volta in Blu-ray. Posso vedere le sue credenziali? Più vicino, per favore. Questo scade tra una settimana. Non è proprio dell'FBI, vero? Sono ancora in addestramento all'Accademia. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, vuol dire che siete bravi e preparati. La Rosa Purpurea @radio24.it è proprio il posto, l'indirizzo di mail giusto per scriverci titolo del film e vostro indirizzo per provare appunto a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra clip. E allora, animazione per animazione, anche se siamo in un'animazione di tipo molto molto diverso, arriva nelle sale in questi giorni, è arrivato già nelle sale in questi giorni, un altro film, questa volta sicuramente dedicato e destinato a un target di bambini piccoli, o comunque un family movie con bambini piuttosto piccoli. Lo è a partire appunto dall'animazione, lo è per le tematiche trattate. Stiamo parlando di Il Castello Magico. Anche qui sentiamo una clip. Abbandonato dai suoi padroni. Spaventato. Solo. Finché? Guarda un po' chi c'è. Come ti potremmo chiamare? Oh, ho trovato! Tuono! Ecco la tua nuova famiglia. Un gattino sta per scoprire. Sei in un castello magico. Che la magia è una cosa seria. Non capite, mi sono perso. Non è un nostro problema. Boris, il Castello Magico di Jeremy De Gruson e Ben Stassen, titolo originale di House of Magic, quindi siamo già dalle parti della magia, già dal titolo. Questo ci fa capire un po' come vanno le cose in questo film, che racconta di un gatto, di un piccolo gattino abbandonato che cerca durante una notte di tempesta un rifugio, viene accolto da un personaggio piuttosto eccentrico con la passione appunto per la magia, e dentro la sua collezione di giocattoli animati capitanati da un coniglio dovrebbe trovare posto appunto anche questo piccolo felino. Da lì poi partono tutte le avventure di questo film. Dicevamo, animazione, Natale, Capodanno sono sempre stati proprio il pianeta dell'animazione, il momento giusto dell'anno. Da quando animazione ce n'è in tutte le salse per tutto l'anno, forse se ne sente un po' meno bisogno, però è interessante a mio modo di vedere questo film per un fatto: il tentativo di recuperare il family movie, come ho detto prima, con bambini piccoli, perché l'avvento e il successo di Pixar, di DreamWorks, dei film che hanno anche il contenuto, la seconda lettura per gli adulti, ha un po' fatto fuori, se vogliamo, invece quello che era il classico dell'animazione, cioè portare al cinema i bambini molto piccoli. Bravissimo, è proprio così. Di fatto avevamo perso quello che un tempo chiamavamo cartone animato. cioè quella visione che adesso chiamiamo family movie, che era soprattutto per i bambini, in cui gli adulti non si divertivano più di tanto ma accompagnavano i propri figli piccoli a vedere un film. E qui si prende a pretesto una storia quasi alla Toy Story, però di Toy Story non c'è né la profondità né la voglia di andare con una sensibilità maggiore più a fondo. Ci si diverte con questo gattino, con questo topolino diffidente, con questo coniglio sovrappeso che è sicuramente il personaggio vero di questo castello magico, e funziona. Io l'ho visto al Courmayeur Noir Festival in anteprima, c'erano molti bambini e i bambini si divertivano, gli adulti un po' meno, però è anche vero che si era perso questo target, questa voglia di divertire i più piccoli, anche solo i più piccoli, e quindi in questo senso questo film che viene dal Belgio funziona e non si può che promuovere, anche se magari noi maggiorenni potremmo anche saltarlo. Beh, mangeremo un popcorn in più. Detto questo, è anche interessante, Boris, questo fatto, tu hai detto giustamente, un film che viene dal Belgio, quindi animazione europea, che sta, non dico recuperando posizioni rispetto a quella americana, perché intanto quella corre sempre molto veloce, però insomma è arrivata oggi a un livello di ottima fattura per quanto riguarda i suoi prodotti, e soprattutto il Belgio che ha, anche nel live action, anche nei film in carne e ossa, la grande capacità di raccontare con ironia favole che però si tingono sempre di noir. Assolutamente sì, il Belgio sta vivendo una primavera che dura da tanto tempo in tutti i generi cinematografici. Si era più in difficoltà nel riconoscere nell'animazione di quei luoghi un'animazione competitiva, invece per quanto riguarda il Castello Magico si capisce che si trova e si impara la lezione statunitense di un tratto, di un disegno di alto livello, senza perdere però la caratteristica europea di un racconto più dolce, di un racconto meno strutturato, di una voglia di appunto regalare animazioni che siano spesso puro intrattenimento. Quindi devo dire che unisce le due lezioni, quella europea e quella statunitense, al meglio. E allora, questo è Il Castello Magico nei cinema italiani. Come abbiamo detto, il primo gennaio, quest'anno è insolitamente abbastanza affollato, insomma, un po' ci ha giocato il calendario, un po' anche per scelte abbastanza nuove che sono state fatte. Ci sono molti film che escono il primo gennaio e noi stiamo continuando a parlarvi proprio di questi film che trovate in queste ore nelle sale cinematografiche italiane. Non dovrebbe sfuggire, diciamo, alla lettura dei tamburini dei giornali il film Un boss in salotto di Luca Miniero, con un cast che annovera Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, insomma un cast ben nutrito e anche abbastanza variegato. Commedia che ancora una volta, come nel cinema di Luca Miniero che fra poco sentiremo, racconta con ironia l'eterno dilemma o l'eterno conflitto, ma anche l'eterno amore in fondo, nord-sud, molto spesso celato e mascherato da qualcos'altro. Noi ne sentiamo una clip e poi ne parliamo. Al nostro Alberico. Salute. Non male, non male. È il nostro maggiordomo. Ama stupire quando entra in scena. Vieni, caro. Portiamo i canederli ai nostri ospiti. Ma perché il maggiordomo è avvoltolato nel tappeto? Perché è persiano. Che succede? Ma niente, starà sbattendo il tappeto, che è una cosa normale. Succede anche a casa vostra, no? Eh sì, ma non col maggiordomo dentro. Dipende dal maggiordomo, amore. Ascolta. Ce ne sono di vari modelli. Se mi rovini questa serata, io ti rispedisco in prigione. Ha detto prigione? Capito? Potevo morire soffocato in due tappeto. Io ho sentito piccione. Piccione? Nei canederli? Abbiamo scelto questa clip perché, oltre ad essere molto divertente, anche abbastanza surreale, si sentono le voci di quasi tutti i protagonisti, almeno dei quattro principali che vi abbiamo raccontato, appunto Cortellesi, Papaleo, Argentero e Finocchiaro. Salutiamo alla Rosa Purpura Luca Miniero. Ciao Luca, ben ritrovato. Voi. Grazie. Allora, dicevamo, si riflette ancora un po' su quelle cose che fanno fare scintille fra nord e sud, ma che insomma sono sempre molto divertenti, no? Di questo lungo stivale. Sì, diciamo che qui in realtà il conflitto nord-sud è un po' sullo sfondo, però c'è sicuramente un personaggio molto molto meridionale, questo presunto camorrista interpretato da Rocco Papaleo, che va a casa della sorella che ormai è diventata una settentrionale, anche perché ha rinnegato le proprie origini, però in realtà entrambi sono meridionali questa volta. E poi c'è tutta una società intorno, con appunto Angela Finocchiaro, Ale e Franza, eccetera, che rappresenta, se vuoi, la società provinciale, borghese, che si trova alle prese con questo boss che ne farà di tutti i colori. Ecco Luca, una cosa che mi colpisce è il realismo che sta dietro il personaggio di Paola Cortellesi, cioè essendo anch'io di origini meridionali, come dire, no? Conosco perfettamente il genere, cioè di quello trapiantato a Milano, al nord, eccetera, che a un certo punto, un minuto dopo essere arrivato, parla: uè, ciao, allora, come stai? Cioè, c'è tutta questa cosa, ed è una storia vera, ne abbiamo in tutte le famiglie. Ah no, questo è assoluto. Addirittura lei si fa chiamare Cristina, ma poi scopriremo nel corso del film che si chiama Carmela, scopriremo che è meridionale, ma lei ha assolutamente assunto l'accento, le movenze, anche alla cucina del nord dove vive. Questo personaggio mi è stato ispirato da molti personaggi che ho incontrato. Addirittura quando ho raccontato questo personaggio, i produttori cercavano una motivazione perché questo personaggio negasse le proprie origini, ma purtroppo non c'è. Spesso quelli che vanno al nord, è un tipico meridionale, si trasformano in qualcuno che proprio si scorda della propria meridionalità e diventa peggio e più realista del re. In questo caso in realtà lei c'è anche un forte motivo, perché c'ha suo fratello camorrista, è per questo che è scappata. Ma anche se non avesse avuto questo fratello camorrista, siamo sicuri che persone così come le incontrate tu le ho incontrate anche io moltissime. Senti, Papaleo come sempre molto versatile, gli puoi dare ormai qualsiasi ruolo, insomma. Assolutamente, no, lui devo dire riesce anche lui ad essere molto realista, perché ne abbiamo visti personaggi purtroppo, questi presunti delinquenti, questi presunti camorristi o camorristi veri, che insomma in qualche modo sono anche dei personaggi folcloristici, e lui è così, perché in realtà lui è uno che si vanta di essere un grande camorrista ma non lo è, quindi praticamente c'ha tutta la legge, il manuale del film del perfetto camorrista, tutta una mitografia della camorra, ma in realtà appunto è un uomo, un piccolo delinquente dotato di grande umanità. Senti Luca, ti chiedo un'ultima cosa, è stato un anno quello che si è chiuso, e anche questi primi dati di questo periodo natalizio per la commedia italiana di varie sfaccettature, di varie qualità, comunque molto positivo, da Zalone in giù, diciamo così. Tu sei il signore, come dire, che si è permesso due successi come Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Ti senti la responsabilità di compartecipare adesso con questo nuovo film, a questo grande ritorno, insomma, per il nostro pubblico della nostra commedia? La responsabilità di fare un buon film, uno penso che se la debba sentire addosso a prescindere dagli incassi, e anche questa volta quindi io vorrei che appunto il pubblico, come sta facendo, apprezzi il film, ma nello stesso tempo non è che possiamo pensare sempre al grande incasso. Diciamo, quest'anno è andata bene anche e soprattutto grazie al Zalone, e ci auguriamo che in questo anno che viene ci siano tanti fenomeni, magari non così grandi come quello di Zalone, ma che ce ne siano di più, in modo tale che abbiamo appunto maggiore vitalità per tutto il nostro cinema, a partire appunto da Un Boss in Salotto. E allora, Un Boss in Salotto in circa più o meno 400 sale in tutta Italia, questo è il film italiano della settimana, senza ombra di dubbio. Grazie a Luca Miniero. Grazie a voi. E allora andiamo a giocare nuovamente insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Gli agnelli hanno smesso di gridare. Non cercare di rintracciarmi. Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. Beh, insomma, questo è qualcosa di più di un assist, francamente. Però, insomma, è la seconda clip, allora abbiamo voluto dire, vabbè, dai, cominciamo l'anno facendo indovinare tanta gente, tanto poi a portare a casa il Blu-ray di questo film sarete comunque sempre in due. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo, metteteci dentro anche il vostro indirizzo per agevolare le operazioni di spedizione. A questo punto noi invece facciamo un passo indietro di 7 giorni e ascoltiamo la clip con cui avevamo giocato alla fine dell'anno. Sentiamo. Avremmo dovuto prendere un taxi pubblico. Oh. Ah! Attenzione! Calma, se non sapessimo guidare, non avremmo la licenza. Non hanno gli occhi. E allora, questo era il game della scorsa settimana, si trattava di Percy Jackson, i mostri del mare, o il mare dei mostri, adesso non ricordo bene dove stanno i mostri e dove sta il mare, però insomma quelli sono gli elementi che appunto era il nostro game della scorsa settimana. Ne parliamo perché è un'uscita proprio di questi giorni con gli amici del settimanale Film TV, che anche in questa prima puntata del 2014 sono con noi. Giulio San Giorgio, buon anno anche a te. Ciao Franco, un buon anno a te e radioascoltatori. Sì, era Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo e il sottotitolo è Il mare dei mostri, secondo atto della saga dedicata ai ragazzi e al giovane figlio di Poseidone, presentato nella versione Blu-ray stereoscopico e in Blu-ray 2D e in DVD. Un'edizione curatissima che esalta assolutamente le qualità spettacolari del film e gli extra sono decisamente ricchi. Una storia a fumetti inedita dedicata al personaggio di Tyson e tre lunghi e curiosissimi approfondimenti. E allora, questo è il game della scorsa settimana, noi però non ci dimentichiamo anche di dare un'occhiata ai palinsesti televisivi per sbirciare qualche film di quelli che vale la pena vedere, sebbene sul piccolo schermo, e ne è ricca la prossima settimana, a cominciare dalla grande animazione molto smart come quella di Rango. Sì, domenica Rango su Rai 3 alle 21.30 in prima visione TV, un western animato e allegramente demenziale diretto da Gore Verbinski con protagonista un camaleonte in crisi di identità che omaggia continuamente la carriera di Johnny Depp e la storia del western da Ford a Leone, da Peckinpah a Eastwood, un film tra l'altro premiato con l'Oscar per l'animazione, migliore animazione. E questo era Rango, ma c'è anche il grande cinema d'autore americano nella fattispecie con un piccolo capolavoro come La conversazione. Sì, La conversazione su Rai Movie alle 2.55 di notte di lunedì, un capolavoro di Coppola tra Hitchcock e Antonioni, un noir che anticipa e mette in forma il senso di paranoia che esploderà in America nello stesso anno con il Watergate. E allora, queste le due segnalazioni, ricordiamo ancora Rango, Rai 3, 21.30, domenica 5 gennaio, La conversazione, Rai Movie, 2.55 della notte di lunedì 6 gennaio. Grazie agli amici di Film TV e a Giulio San Giorgio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, ancora auguri per un buon anno. E siamo arrivati allora alla fine con le segnalazioni di Film TV, alla fine della nostra puntata. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, come sempre, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e cerchiamo di arrivare all'inizio di questo 2014 alla fatidica cifra dei 3.000, quelli erano 300, noi siamo 3.000, insomma siamo un po' di più. Appuntamento alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 16.05, io ringrazio Margherita Ina in redazione, Fabio Cantadori in regia, vi do appuntamento appunto fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea, a tutto il cinema che c'è.